America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Steve Jobs, the visionary founder and leader of Apple Computer, has died at the age of 56. A giant in business, technology and entertainment, Steve Jobs had been battling pancreatic cancer for 8 years. Steve Jobs è morto ieri sera a 56 anni. La notizia è triste, ce l'aspettavamo, ma è giunta lo stesso come una sorpresa. Si è diffusa in America ieri sera in modo istantaneo sugli iPad, sugli iPhone, sui terminali dei personal computer, sugli strumenti che lo stesso Jobs aveva inventato, alla Apple Computer, per dare all'individuo il potere di cavalcare in pieno controllo l'era di Internet, per dare al paese quella sensazione di sogno americano che oggi è perduta, quel sogno che era nato in un garage in California con due amici, due giovani. Aveva 21 anni, appena 21 anni, Steve Jobs, figlio adottivo di gente comune, quando aveva fondato l'Apple Computer e aveva messo a punto il primo personal computer. Lo aveva fatto insieme a due ragazzi come lui, Steve Wozniak, Ronald Wayne. Poi restò da solo alla guida di quella che sarebbe diventata, come è diventata oggi, la prima azienda industriale per capitalizzazione in America, oltre 300 miliardi di dollari. Today, for the first time ever, I'd like to let Macintosh speak for itself. Hello, I'm Macintosh. The truth is great to get out of that. Non so se qualcuno di voi la ricorda, ma questa che vi ho fatto ascoltare è la pubblicità al debutto del Macintosh. Steve Jobs, che il 24 gennaio del 1984 presentava il Macintosh. And the one we introduced today, the iMac, is incredibly sweet. So I think it's going to make a big difference. 6 maggio 1998, presentazione dell'iMac. What is iPod? iPod is an MP3 music player. 23 ottobre 2001, arriva l'iPod. Today Apple is going to reinvent the phone. 9 gennaio 2007 è la volta dell'iPhone. In order to really create a new category of devices, those devices are going to have to be far better at doing some key tasks. And we call it the iPad. 27 gennaio 2010 ci avviciniamo l'ultimo nato, l'iPad. Una successione di innovazioni, di prodotti, di gadget che hanno travolto il mondo intero, hanno scatenato l'immaginazione. Credo che ognuno di noi abbia un ricordo molto personalizzato di Steve Jobs: il primo iPhone, il primo iPad, il primo Mac, la prima canzone comprata su iTunes. Per me il ricordo è negli anni 80, ci mandò in redazione, una redazione giovanissima allora di due persone, fatta da me, da Cecilia Galliena, due Apple IIe, e sono arrivati i bambini, disse Cecilia, e l'Apple ce li aveva mandati molto generosamente in forma sperimentale per capire come il giornalismo poteva usare i computer. Quel giorno noi abbiamo archiviato la macchina da scrivere, i nastri bucherellati dei telex, per inviare gli articoli con un lentissimo modem primordiale. E voglio ricordarvi cosa disse, per lasciarvi così un messaggio, nel suo celebre discorso del 2005, quando parlò del suo cancro alla Stanford University, e disse a questi giovani: ho vinto la battaglia contro il cancro, e adesso, dice, guardo al futuro, ma ho anche imparato che la morte è un agente di cambiamento. Ricordatevi, disse a quei ragazzi, il vostro tempo è comunque limitato, non vivetelo in funzione degli altri, vivetelo in pieno. Che poi era la filosofia della sua vita: dare il potere all'individuo. No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet, death is the destination we all share. No one has ever escaped it. And that is as it should be, because death is very likely the single best invention of life. It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. Bene, con me in studio a parlare di Steve Jobs, Massimo Gaggi, un amico, un collega, il corrispondente del Corriere della Sera. Buongiorno, Massimo. Buongiorno a voi. Massimo, io e te ieri sera eravamo insieme, eravamo in un momento molto particolare quando abbiamo saputo di questa notizia. Eravamo a una cena con l'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, con dei banchieri, con dei personaggi importanti, ed è lì che abbiamo saputo della morte di Steve Jobs. Devo dire, poi naturalmente tutti hanno cominciato a parlare di quello. Che cosa ti viene in mente dovendo pensare a Steve Jobs e dovendo pensare al momento in cui l'hai saputo? Io ho pensato a quello che stavo facendo un'ora e mezzo prima, quando era la manifestazione di Occupy Wall Street, questi ragazzi della protesta ormai oceanica di New York e dell'America, perché ormai sono ovunque, da Chicago a Los Angeles, che è la, non so se diventerà una grandissima protesta, ma che è la prima grande protesta americana dell'era di internet. Ragazzi che avevano appunto in mano gli strumenti della sua tecnologia, gli iPad, gli iPhone, le cose che ha creato e con le quali ha fatto da Apple un'azienda straordinaria che tutti conosciamo. C'è qualcosa che ci dice che forse Steve Jobs poteva fare questo soltanto in America? E un'altra riflessione, Massimo, è possibile che uno Steve Jobs continui oggi a esserci in America, a darci il sogno americano nel momento in cui questo paese sembra stretto alle corde con i dimostranti contro Wall Street, come dicevi un minuto fa? Ma io credo che questo rimanga comunque il paese in cui i sogni degli imprenditori, ahimè non più i sogni di benessere della società, ma che i sogni dei singoli generi, dei singoli imprenditori sono ancora, in questo paese possono realizzarsi più facilmente che altrove, nel senso che ci sono le condizioni ambientali più favorevoli. Altro discorso è invece l'impoverimento del paese e i problemi sociali e strutturali che stanno diventando stringenti, ma credo che appunto per un genio ci siano ancora grandi opportunità. Ecco, la Apple Computer senza Jobs, come la vedi, Massimo? Almeno dal punto di vista della comunicazione e dell'immagine, un impatto già per il fatto che comunque Jobs evidentemente aveva già mollato da un po' di tempo la guida dell'azienda, un primo impatto si comincia a vedere. Poi magari ci saranno nella pipeline altri prodotti, altre idee suggestive, ci saranno altre persone capaci di catturare l'immaginazione del pubblico. Certamente da adesso in poi la strada sarà molto in salita per la società. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, la dedichiamo naturalmente a Steve Jobs, There Are Places I Remember, una straordinaria canzone nostalgica dei Beatles. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.